15 anni, 16 anni. Va bene. E quanto tempo abbiamo? Mezz'ora. Okay. Va bene. Allora, facciamo una chiacchierata. Esatto. Cioè, con il tempo che c'è. Voi cosa sapete del clima? Che cambia. Che cambia? A questa però ha risposto il professore, no? Sapete qualcosa del clima? Allora, c'è letto sul giornale che ci sono dei, si pensa che ci siano dei problemi sul clima. Sì, sì, no, l'effetto serra. Ecco, cos'è l'effetto serra? È un problema che si crea con i... la riflessione dei raggi tra le nuvole e la terra. E perché è un problema? I raggi ultravioletti possono fare male alla pelle. La temperatura si alza e cioè, si sciolgono il livello dell'acqua, sale e le città sono male. Però se non ci fosse l'effetto serra noi saremmo tutti morti, non sarebbe così. Sì, ma c'è l'effetto serra positivo e ce lo diamo male. Sì, beh, ma è perché con le emissioni tipo delle fabbriche, delle macchine sta aumentando troppo e perciò. Ma come si distingue l'effetto serra positivo da quello negativo? Quello di tipo dell'ozono. No, l'ozono non c'è adesso. Va bene, vediamo. No, no, beh, qualcosa vedo che sapete. Però insomma, bisogna, diciamo, al di là di ciò che viene comunicato anche con una certa facilità, con una certa leggerezza a volte dai giornali o dialoghi a vario livello, bisogna cercare di capire un po' in dettaglio di che cosa si sta parlando. Questo diciamo soprattutto perché si tratta di un tema molto importante, molto serio, ed è un'occasione anche per capire un po' meglio come funziona il pianeta sul quale abitiamo. Quindi poi uno può essere interessato, diciamo, a fare una professione inerente a questo, oppure magari no, però secondo me è importante cercare di capire cosa sta succedendo e di cosa la gente parla. Allora, questi sarebbero i temi che si potrebbero toccare parlando un po' diffusamente del clima. Non so se faremo in tempo a vedere tutto, vedremo qualche cosa di qua e di là. Allora, innanzitutto il clima sta cambiando, questo lo sanno tutti. Una cosa che magari si sa un po' di meno è che il clima in realtà è sempre cambiato. Cioè quello che noi percepiamo come una condizione che può essere buona o cattiva, però nell'arco della vita più o meno è sempre così. In realtà, guardato su una scala più ampia, su un tempo più lungo, non è così. Il clima è cambiato molte volte nella storia del nostro pianeta. Ed è ciò che determina il clima sono una serie, una combinazione di fattori molto lunga, molto complessa, dei quali l'effetto serra è solo uno. E tra l'altro, diciamo, uno che gioca in almeno due ruoli, no? Uno dei quali è estremamente positivo. E poi ci sono, diciamo, si può parlare di come si può cercare di valutare l'andamento del clima e di prevedere l'andamento del clima al di là della sensazione, no? Del fatto che uno dice ah, quest'anno è stato più freddo, oppure mi dicono che il tempo sta peggiorando, che non ci sono più le mezze stagioni, o insomma banalità di questo tipo. Allora, diciamo che normalmente le persone che si occupano professionalmente a qualche livello del clima concordano su almeno tre punti. Voi forse vi sarete accorti che ci sono in realtà molti dibattiti, no? Sia sulla considerazione di come il clima sta evolvendo, sia sulle eventuali azioni che bisogna intraprendere. Cioè avete sentito sicuramente parlare del protocollo di Kyoto, della quota di CO2, tutte queste cose, no? Allora, le affermazioni sulle quali tutti concordano è che si può osservare nel passato del nostro pianeta, studiandolo con varie tecniche, una correlazione piuttosto stretta tra la quantità di anidride carbonica, che appunto concorre all'effetto serra, e la temperatura del pianeta. Correlazione piuttosto stretta vuol dire che andando a misurare con la sensibilità di cui siamo capaci, che è possibile raggiungere, si vede che quando aumenta l'anidride carbonica aumenta la temperatura e viceversa. Però attenzione, questa non è un'affermazione così così diciamo, così conclusiva, no? Perché se anche le due grandezze vanno all'incirca insieme nell'arco del tempo, è difficile stabilire da, semplicemente da questa osservazione, quale delle due guida l'altra, no? Ovviamente questo si può misurare facilmente, la quantità di anidride carbonica attualmente nell'atmosfera è più alta che nel passato e la velocità con cui viene immessa è grande, e anche la temperatura media del nostro pianeta è in questo momento in aumento. Tutte queste affermazioni vanno prese con molta cautela, però, e adesso cerchiamo di andarci un po' dentro. Innanzitutto bisogna dire di cosa si parla quando si parla di clima. Si intende come clima l'insieme dei valori di alcune variabili fisiche che si possono definire per il sistema, essenzialmente per il sistema atmosfera, quindi per l'aria che circonda il nostro pianeta, e per le masse d'acqua e la superficie della Terra. Quindi quello che si studia di fatto è l'andamento di temperatura, pressione, umidità in un sottilissimo strato dell'universo, che è lo strato dove vivono le persone di fatto, comprendendo in questo strato, estendendo questo strato, quindi non solo la superficie del pianeta, cioè diciamo la regione dove atmosfera e oceani o atmosfera e suolo si toccano, ma alcune centinaia di metri o alcuni chilometri più in su e alcune centinaia di metri in profondità. Quindi il clima si occupa di questo sottile strato di contatto tra due o tre sistemi materiali molto diversi. Eppure essendo così piccolo rispetto a tutto quello che c'è intorno, il clima ha una dinamica molto complessa. Tant'è vero che per seguire l'andamento di questa dinamica non è sensato prendere la misura istante per istante, per esempio, della temperatura. Bisogna fare delle medie che sono tipicamente pluriennali, sulla media di 30 anni, per poter osservare delle variazioni degne di nota dal punto di vista della statistica. Bisogna prendere delle medie di alcuni anni, perché la media giornaliera o anche annuale non sono particolarmente significative, proprio a causa della grandissima quantità di fattori che concorrono a determinare la temperatura. Allora, questo è un esempio di quello che vi dicevo, no? Questo è l'andamento nella storia. L'unità temporale sono milioni di anni, la curva superiore è la concentrazione di ossigeno nell'atmosfera e quella inferiore è la concentrazione di anidride carbonica. E sotto, nella striscia più in basso, qua sotto sono segnati periodi climatici. In questo periodo c'era un clima molto caldo, in questo periodo c'è una glaciazione e via dicendo, no? E vedete che queste le glaciazioni corrispondono per esempio tipicamente a dei periodi con poca concentrazione di CO2. Però vedete anche che la colorazione è, non è strettissima, non è precisissima. Allora, questo è l'andamento invece dell'anidride carbonica negli ultimi 1000 anni, come si misura con tecniche geologiche su cui adesso non entriamo, e si vede che c'è stato un aumento sostanzialmente a partire da 200 anni fa. E questo invece è l'andamento della temperatura da quando si misura in modo sistematico, cioè di quando esiste una rete mondiale più o meno estesa, più o meno fitta, intendiamoci, che registra con procedure scientifiche certificate l'andamento della temperatura. Anche qui vedete che la temperatura è rimasta all'incirca costante fino al 1910 in questa zona, poi c'è stato un aumento fino al 40 e poi una discesa e poi di nuovo una risalita. adesso siamo in questa zona, quindi siamo dopo una salita che è durata una trentina d'anni. D'altra parte, vabbè, come si fa a studiare l'andamento della temperatura, per esempio, delle altre variabili climatiche nel passato? Sostanzialmente si usano le tecniche geologiche, di cui oggi non vi parlo, vi parleranno di questo colleghi vari che verranno nelle prossime puntate, sono cose molto interessanti. E comunque si va a sostanzialmente a studiare la composizione chimica dettagliata di strati di ghiaccio in profondità, che sono lì appunto da centinaia di migliaia d'anni, oppure stessa tecnica diciamo simile applicata ai sedimenti marini, cioè a quello strato di suolo che sta sul fondo del mare a diverse profondità, diciamo sotto l'interfaccia con l'acqua. Ciò che queste indagini dicono è che sostanzialmente il clima si è sempre modificato, come vi ho fatto vedere prima con quel grafico abbozzato. Il clima è sempre cambiato, non è una novità degli ultimi 100 anni e non è una novità della rivoluzione industriale che il clima cambi. Forse da 200 anni c'è un fattore in più, ma in realtà il nostro pianeta ha subito una serie di trasformazioni climatiche anche molto violente in passato. Alcune di queste sono cicliche, che si ripetono, come vi farò vedere tra poco. Ovviamente questa questione apre una domanda essenzialmente, cioè se il ruolo dell'uomo, questo componente in più che si è aggiunto nell'ultimo periodo, può veramente giocare un ruolo determinante e può in qualche modo spostare l'equilibrio in senso negativo, in senso sfavorevole. Allora, questo è di nuovo l'esito di una misura sui sedimenti di ghiaccio e vedete sull'arco di circa 400.000 anni, dove il presente è qui, si vede che l'andamento della temperatura ha proprio delle ciclicità, con dei cambiamenti assolutamente repentini, naturalmente visti a questa scala temporale. E sicuramente in tutto questo periodo la presenza dell'uomo è stata ininfluente, perché certamente diciamo sia la quantità di persone, sia le tecnologie a disposizione non erano assolutamente in grado di intervenire in modo significativo sul fondamento del clima. Quindi vedete ci sono dei cambiamenti molto importanti dell'ordine della decina di gradi, che è molto. Adesso quando si parla di catastrofe ambientale si parla di cambiamenti dell'ordine di 1-2 gradi su un secolo. Quindi sono cambiamenti molto più ampi, escursioni molto più ampie della temperatura, completamente diciamo dominate da fenomeni che non hanno nulla a che vedere con l'uomo. L'altra osservazione interessante da fare è che i periodi di caldo nel passato sono molto brevi rispetto ai periodi di freddo. Noi adesso siamo in un periodo di caldo, diciamo, a parte il fatto che negli ultimi 30-40 anni la temperatura è salita, ma questo dal punto di vista anche geologico è un periodo di caldo. Tipicamente il fiorire delle civiltà anche in età storica è legato a questo periodo di caldo. Per esempio il Medioevo è stato un periodo di temperatura mite in Europa e quindi ha visto la colonizzazione e l'espansione delle popolazioni in Islanda o nel nord dell'Europa. Scusi? Prego. In quel grafico precedente, l'ultima zona di caldo, a quanti mila anni si riferisce quello spazio stretto? 10.000 anni? Questo? Sì. No, questi sono 100.000, circa 120.000 anni. Ah, ho capito. Ogni tacca sono 10.000. Ogni tacca sono 10.000. Ma non c'è una zona in piccolo, nella nostra epoca. No, sulla scala non. Diciamo perché? Beh, ci sono più di una ragione. La ragione principale è che questa tecnica di misura va a misurare il ghiaccio in profondità. Chiaramente il ghiaccio in superficie risente delle variazioni a breve termine, no? Quindi non ha senso. Grazie, scusi. Prego. Questa è un'altra ricostruzione su una scala più breve, di 10.000 anni, invece, quindi tutto quello che stava qui in una tacca, adesso lo vediamo espanso, e anche qui vediamo, questa volta il presente sta a destra, vediamo l'andamento del clima intorno al valore di 15 gradi per la temperatura media attuale, e vedete che ci sono state delle oscillazioni. Anche sulla scala di 10.000 anni l'uomo non ha potuto far nulla, era un'età del ferro, quindi vabbè, si bruciava un po' di legna, però non è che ci fosse industrializzazione, no? E vedete che anche in questo caso, anche su questa scala, le fluttuazioni medie sono ampie, e vedete che qui ci sono due massimi in epoca storica, uno medievale e uno all'epoca dei romani. Quando vedete nei film i romani che vanno in giro sbracciati per l'Europa, diciamo, è una ricostruzione storica, ma corrisponde al fatto che faceva più caldo di adesso, per cui d'inverno si poteva andare in giro così. Allora, di fronte a questa situazione storica bisogna adesso affrontare il problema del presente, dove c'è invece questa emissione aumentata di anidride carbonica, e si tratta di capire l'impatto che questo può avere. In questo impatto bisogna tener conto che la cosa va, diciamo, affrontata da un punto di vista oggettivo, più possibile, scientifico. Come dice questa frase molto rappresentativa di Sant'Agostino, di nuovo in un'epoca in cui non c'era ragione di preoccuparsi del clima come ce ne preoccupiamo adesso, dice: vedete come stanno le cose, viviamo in tempi brutti, anche i nostri padri deplorarono di dover vivere brutti tempi, ed anche i padri dei nostri padri, a nessun uomo sono mai piaciuti i tempi in cui è dovuto vivere, ma chi vive dopo rimpiange i tempi andati. Allora, questa, diciamo, un'attitudine un po' che la gente in media ha, di lamentarsi del presente. Questa attitudine deve essere in particolare abbandonata se uno cerca di valutare com'è il clima. Allora, vediamo quali sono le evidenze che adesso facciamo una specie di carrellata dove vediamo dei segni del clima che cambia. Allora, un primo segno è, diciamo, il danneggiamento della flora e della fauna sottomarina in certe regioni del pianeta. No, è abbastanza semplice trovare anche in internet delle fotografie così che vi descrivano il prima e il dopo, no? Si registra nel Mediterraneo un cambiamento della fauna marina, con l'ingresso di specie che sono tipiche dei mari tropicali. Però se si va a guardare in modo sistematico le statistiche, si vede che la temperatura globale media nell'atmosfera è cresciuta di meno di un grado in un secolo. La temperatura degli oceani invece è aumentata di 0,1 grado, quindi una quantità al limite della misurabilità, dal 63 al 2003. La temperatura media globale è in discesa negli ultimi 6 anni e l'eventuale riscaldamento non è omogeneo, cioè ci sono l'Oceano Atlantico che si è scaldato a sud, così come si è scaldato il Mediterraneo, ma il Nord Atlantico e il Nord Pacifico si sono raffreddati. Quindi, diciamo, in realtà i segni locali come questo sono segni locali, cioè non sono necessariamente indice di un cambiamento su scala globale, sono indice di un cambiamento che può trovare le sue radici non in un aumento complessivo della temperatura, ma nel fatto che il clima del pianeta non è mai stato costante, non può essere costante entro certi limiti. Se per esempio andiamo a guardare, questa è una classifica, no? È la classifica degli anni più caldi nell'ultimo secolo e mezzo circa. I più recenti sono più caldi. Eh no, sì, i più recenti sono i più caldi, però per esempio il 2008, questo grafico l'ho preso ieri, il 2008 è il più freddo degli ultimi 10 anni, per esempio, e la temperatura è in realtà in calo o non è aumentata dal 97, se non sbaglio. Quindi vedete che di fronte al fatto che in realtà l'immissione di anidride carbonica nell'atmosfera è in aumento e anche non è particolarmente, diciamo, in aumento con una velocità minore, ma sostanzialmente negli ultimi anni è rimasta costante, questo non corrisponde in modo diretto con l'aumento di temperatura. Poi altre evidenze, scioglimento dei ghiacci, questa è una notizia del Corriere della Sera di qualche anno fa, con diciamo, immagini di pezzi dell'Antartide che si staccano, che si sciolgono, questa è, diciamo, una ricostruzione da satellite che rende un po' l'idea meglio, con il ritiro di una lingua di ghiacciaio dalla sua estensione a metà dell'Ottocento, XIX secolo, a come si è ridotta adesso. Di nuovo però andando a guardare le statistiche si vede che i ghiacci dell'Antartide si stanno sciogliendo, ma invece quelli dell'Artico, del Polo Sud, non sono in diminuzione, anzi sono in leggero aumento. Per quanto riguarda il livello del mare, che è un'altra delle cose che viene temuta, no? Il livello del mare con conseguente perdita di zone abitate, eccetera, l'aumento medio globale è di quasi 2 mm all'anno dal 1880, però se uno va a vedere, quindi è vero che sta aumentando il livello, però anche qui ci sono, diciamo, dei trend diversi a seconda del periodo e della zona, anche nel passato recente, e soprattutto se si va a guardare su una scala più lunga, cioè di 180.000 anni, la media di aumento è molto più alta, quindi adesso aumenta più lentamente il livello del mare di quanto non sia mai aumentato negli ultimi 200.000 anni. Quindi vedete che la situazione è un po' più complessa da come viene dipinta, no? Bush cattivo che non vuole, adesso non è che dico Bush sia buono, però non è che tutto il problema si risolve con diciamo, un'azione politica o concertata in poco tempo, no? Il problema è molto più complicato. Un'altra cosa che si teme è l'aumento di eventi catastrofici. Quando c'è stato l'uragano Katrina a New Orleans, di nuovo una delle cose subito dette è stata che è colpa del clima che cambia, eccetera, eccetera, eccetera. In realtà anche in questo caso, andando a guardare le statistiche, chi ha studiato con molta attenzione le statistiche osserva che non è possibile attribuire significato statistico alla frequenza con cui avvengono i fenomeni estremi. Cioè, significa che avvengono in modo così irregolare per cui non è possibile individuare un andamento nel periodo di osservazione. È chiaro? Quindi, diciamo, l'affermazione il clima sta cambiando e quindi aumentano gli uragani o aumentano le inondazioni, aumentano gli eventi estremi, è un'affermazione che non ha a tutt'oggi prova scientifica. Siccome, diciamo, la carta si lascia scrivere e l'area libera delle parole delle persone, diciamo, se uno dice molte volte una cosa, alla fine la gente si convince, specialmente se non ha l'occasione di informarsi in modo diretto e approfondito. Però in realtà, andandosi a informare in modo approfondito, si vede che la situazione è molto più complicata ed è difficile in realtà attribuire delle responsabilità a un particolare fattore, in particolare a quello umano. Per quanto riguarda la salinità del mare, che è, diciamo, è legata alle precipitazioni, è un'altra cosa che si teme, no? Forse questo è un po' più sottile, se ne parla di meno, però ciò che si teme è che se i ghiacci si sciolgono cambia il grado di salinità degli oceani, e siccome le correnti oceaniche sono mosse, spinte dalle differenze di temperatura e dalle differenze di salinità, mi seguite? Sì. Potrebbe, si paventa, diciamo, potrebbe esserci un blocco delle correnti, del movimento delle correnti, provocando quindi, diciamo, un'estremizzazione delle temperature. E sapete che, poi più avanti magari ne parliamo, che ci sono delle correnti che vanno dal sud del Pacifico fino al nord dell'Atlantico, e in questo modo diciamo, portano, con un asse trasportatore che porta il calore dall'equatore verso i poli, e questo contribuisce al clima, ovviamente, e contribuisce anche a temperare in media la temperatura della Terra. Un blocco di questo meccanismo sarebbe evidentemente molto, potrebbe avere conseguenze molto serie sul clima, no? Però, di nuovo, andando a misurare la salinità, che quindi è l'indice di come uno dei fattori che muove le correnti sta evolvendo, si vede che in realtà i cambiamenti sono non sono omogenei, quindi zone, questa è la salinità in funzione della latitudine, quindi poli, equatore, poli nuovo, e in funzione della profondità sotto il livello del mare, sotto la superficie del mare. E le misure dicono che dove è rossa sta aumentando, dove è blu sta diminuendo. Le misure dicono che in realtà, diciamo, è una situazione variegata, con variazioni piccole comunque e diverse a seconda della regione. Allora, come porsi di fronte a questo problema? Cioè, il clima sta cambiando in modo drammatico oppure siamo di fronte a un cambiamento naturale o in gran parte naturale? Sicuramente il primo passo da compiere è cercare di analizzare quali sono i fattori in gioco, capirli e di vedere se da questo si riesce a dedurre come evolverà la situazione, come si è sviluppata finora e come evolverà la situazione in futuro. Quanto tempo abbiamo ancora? 5 minuti. Allora, non posso contestare? Hanno un'altra materia, posso chiedere all'insegnante l'italiano? Possiamo fare 5 minuti una carrellata. Vediamo almeno una o due cose, una cosa, diciamo, importante. Ci sono vari fattori quindi che determinano il clima, no? Uno di questi, ad esempio, sono i dettagli di come è fatta l'orbita terrestre. Voi sapete che ovviamente che la Terra ruota intorno al Sole e ruota stando in un piano, ma ruota su se stessa in un piano che è diverso dal piano dell'eclittica, e questa inclinazione è ciò che determina le stagioni. Dopodiché, in questa situazione dove la Terra compie una rivoluzione ogni anno all'incirca, ci sono delle variazioni periodiche nel tempo. L'inclinazione dell'asse terrestre, quindi l'inclinazione di questo asse, varia con un periodo di 41.000 anni. L'eccentricità dell'orbita varia con un periodo di 100.000 anni, quindi, diciamo, l'orbita diventa più o meno ellittica con questo periodo. E la posizione di massima distanza, di minima distanza, di nuovo oscilla nel tempo con questa, con questa periodicità. Tutti questi fattori hanno una influenza diretta, proprio geometrica, sulla quantità di radiazione che investe ogni regione della Terra, in parte per come la Terra è orientata rispetto al Sole, in parte per la distanza che varia. Allora, andando a combinare queste tre variazioni che ho citato ora, si può calcolare, e questo fu fatto all'inizio del secolo scorso, si può calcolare quant'è la, la quantità di radiazione solare che giunge in una particolare locazione della Terra. Si può ovviamente ripetere per tutte. Quindi la combinazione di questi tre fattori produce questa quantità di radiazione solare, la fluttuazione di questa quantità di radiazione solare. Viene qui dal professionista. E quello che c'è invece nel grafico inferiore è il corrispondente andamento della temperatura sulla Terra. Allora, cosa ci dice questo, questo grafico? Ci dice che esiste un fenomeno esterno, esterno alla superficie del pianeta, che è in grado in qualche modo di iniziare delle variazioni rapide. Vedete che c'è una corrispondenza abbastanza buona tra la periodicità di questa fluttuazione, come varia questa grandezza, la quantità di, diciamo, di irraggiamento solare, e la periodicità della temperatura, che è poi l'andamento delle ere glaciali. C'è una periodicità, diciamo, c'è una corrispondenza abbastanza buona, picco corrisponde a picco, vedete, qui, qui, qui, eccetera, ma non è una corrispondenza perfetta. Bene? Allora, questo è un esempio particolarmente significativo perché fa vedere come anche un fattore chiaramente individuabile e chiaramente calcolabile come la variazione di irradiazione solare su un sistema complicato come quello della Terra non è sufficiente a determinarne l'andamento. Si riconosce in qualche modo la presenza di un'influenza, ma non si è in grado di descrivere completamente e quindi prevedere con esattezza come evolverà. Quindi questo è un indice molto chiaro che si tratta di un sistema complesso, quindi non è detto che ad uno stimolo in una direzione segua una reazione esattamente proporzionale. Questo discorso si può ripetere, ovviamente con caratteristiche diverse, per tutti i vari fattori che determinano il clima. Quindi questo spiega perché è così difficile mettersi d'accordo su quale sarà il clima, non solo, anche su quale sarà il tempo, cioè il tempo meteorologico a distanza di pochi giorni rispetto a quando si fa la previsione. Allora, se abbiamo ancora un po' di tempo, se avete... Allora, adesso sto andando un po' a macchie di leopardo. Per esempio, l'altra questione di cui abbiamo parlato è la presenza di anidride carbonica. Abbiamo visto che grosso modo sono in proporzione la temperatura con la presenza di anidride carbonica, però ci sono anche dei segni di carattere diverso. Allora, in questo grafico ci sono la curva in rosso rappresenta l'andamento della temperatura misurato nel passato, tra 10.000 e 20.000 anni fa, e la parte, lei dice la curva in blu, rappresenta la rilevazione trovata con tecniche geologiche di segni che indicano la presenza di anidride carbonica. Quindi sostanzialmente queste due curve sono la temperatura in una certa epoca e la presenza di anidride carbonica. Quello che si vede è che le due curve vanno grossolanamente insieme, ma ci sono anche degli altri fattori che entrano in gioco. Per esempio, in questa posizione, mentre c'è un aumento della temperatura, c'è una diminuzione della concentrazione di anidride carbonica. Oppure, in questo caso, si ha un aumento della concentrazione, ma l'aumento della temperatura è ritardato. Quindi questo di nuovo è un altro esempio, non del fatto che anidride carbonica e temperatura non c'entrano nulla, ma del fatto che il legame tra le due cose è complesso e quindi è, diciamo, non si può semplicemente dire diminuiamo un pochino l'anidride carbonica e questo produce il risultato che noi speriamo di diminuire la temperatura o di decelerare la crescita della temperatura. Vediamo un altro esempio interessante. Abbiamo visto che la radiazione solare influenza la Terra a causa delle caratteristiche dell'orbita della Terra stessa. Però anche il Sole ha delle sue variazioni, no? Ci sono le macchie solari e ci sono dei periodi in cui il Sole è più attivo di quanto di altro. E allora si può provare a fare una correlazione tra la presenza di macchie solari, che è qui indicata da questi picchi. In presenza di macchie solari il Sole, diciamo, è un po' più caldo, scalda un po' di più la Terra, e andare a rilevare la temperatura sulla superficie della Terra in corrispondenza con queste variazioni. E quello che si vede in questo caso è che per un certo periodo di tempo, quello qui esaminato tra il 1600 e il 1850 circa, l'andamento tra queste due grandezze era un ottimo accordo. Quindi la temperatura in questo caso del pianeta sembrava sostanzialmente guidata solo dall'andamento della, diciamo così, dell'attività solare, delle macchie solari. In realtà questo andamento non è più vero negli ultimi 150 anni. Quindi anche questo è un altro esempio di come uno dei fattori può essere magari prevalente in un periodo, ma non essere l'unico motivo o il motivo principale in un altro periodo, nel caso intervengano ulteriori fattori. Per esempio, ciò che è chiaro di questi periodi successivi è che l'attività vulcanica ha giocato un ruolo importante. Vediamo se trovo l'esempio. Ecco, ad esempio in questo caso vedete che questo è l'andamento della temperatura in un periodo relativamente breve, circa un secolo, che ha corrispondenze con delle cadute di temperatura, dei piccoli crolli, vedete, che hanno delle corrispondenze con le eruzioni vulcaniche. Quindi con il fatto che vengono immessi da eruzioni molto importanti quantità di polvere nell'atmosfera che mascherano, che coprono, che schermano la radiazione solare. Lo sfondo di tutte queste slide, vedete? Il fondo, questi strati scuri sono esattamente la misura di questo fenomeno. Questo strato è stato si è formato in seguito all'eruzione del Pignatubo a metà degli anni 90, mentre prima era assente, ed è questi fenomeni durano per alcuni anni, quindi per alcuni anni si registra una diminuzione di radiazione solare causata anche da questi fenomeni. Questo osservano con particolari filtri. Queste sono misure da sapere. Questa era una foto, semplicemente una foto presa dallo shuttle. Allora, questo forse è troppo dettagliato. Ecco, vediamo un altro punto importante che riguarda l'effetto serra, di cui già sapete come funziona. Allora, bisogna, se noi consideriamo l'effetto serra complessivo, questo è dovuto a varie componenti della nostra atmosfera. Non è tutta colpa dell'anidride carbonica, è colpa o merito di una serie di gas. Il vapor d'acqua innanzitutto è quello che gioca il ruolo più importante, poi c'è l'anidride carbonica, di cui gran parte è di origine naturale e una piccola parte di origine umana, diciamo, collegata alle attività umane. Poi c'è l'ozono e altri gas che giocano una piccola parte. Allora, se noi spogliassimo il nostro pianeta dall'atmosfera, la temperatura, non ci sarebbe più l'effetto serra, la temperatura sarebbe di circa 33 gradi più bassa. Quindi la temperatura media del nostro pianeta sarebbe non 15 gradi, ma meno 15 gradi o meno 18. Con una temperatura di meno 18 gradi media, la Terra sarebbe una palla di ghiaccio. Ma il ghiaccio, lo sapete benissimo, vivete in montagna o vicino alle montagne, è bianco e riflette la radiazione solare. Quindi l'effetto sarebbe ulteriormente aumentato dal fatto che il calore del Sole, la luce del Sole, anziché essere in parte trattenuta dalla Terra, come accade, sarebbe quasi completamente riflesso. Quindi questo sarebbe, diciamo, letale per la vita sul nostro pianeta. Quindi l'effetto serra è al 99% un effetto buono e addirittura essenziale. Andiamo a vedere ancora un po' i numeri. Di tutta l'anidride carbonica, che come vedete contribuisce solo per 7 gradi su 33 all'effetto serra, di questa solo un quarto è legato all'attività umana. Quindi la frazione alla fine che diciamo così, di riscaldamento da effetto serra che determinano le attività umane è una piccolissima quota di tutto questo. In questa torta invece sulla destra si vede quali sono i fattori che determinano questo piccolo contributo umano del 25% di questa quota. Vedete che la parte principale di contributo all'anidride carbonica viene da attività che sono, come dire, intrinsecamente legate allo stile di vita, non allo stile, non proprio come, diciamo, una connotazione negativa, al fatto che noi viviamo in una società che ha certe, che utilizza certi strumenti, no? Se non avessimo una tecnologia e un'industria non potremmo stare qui in quest'aula a parlare di queste cose, semplicemente sarebbe inconcepibile. E vedete che la gran parte di questa quota è legata ad attività economiche essenziali, generazione di energia è più di un quarto, industria è il 20%, agricoltura e, diciamo, gestione del territorio è un altro 30%, i trasporti e diciamo, il riscaldamento residenziale sono alla fine un quinto di tutto questo. Quindi, diciamo, la quota che si può, diciamo così, ridurre stando un po' più scomodi è una frazione di questo. All'energia, dell'energia non possiamo fare a meno, si può magari ottimizzare, però non si può fare a meno, dell'industria non si può fare a meno, dell'agricoltura non si può fare a meno, se no non si mangia più. Quindi sono tutte attività in qualche modo essenziali che certamente possono essere ottimizzate. Prego. Allora, va bene, questi sono altri fattori che ho citato molto rapidamente. Ovviamente a determinare il clima, oltre a quello che vi ho detto fino adesso, c'è anche la circolazione dell'aria, che ha tutto un suo gioco con la formazione delle zone cicloniche e anticicloniche. C'è, di cui vi ho già parlato, la formazione delle correnti oceaniche. E ci sono poi i sistemi per misurare in modo sistematico l'evoluzione della temperatura del clima. Questi sistemi sono ormai dominati da misure fatte da satellite. Qui vedete un esempio della copertura, no? Con le misure fatte da satelliti che sono in orbita polare, quindi passano, diciamo, da nord a sud, da sud a nord sulla superficie terrestre, oppure da satelliti che sono in posizione geostazionaria, quindi stanno su certe regioni del globo e misurano le grandezze climatiche in quella posizione. E poi c'è una rete di stazioni fisse o marine. La densità di puntini rossi dice dove sono distribuite, quindi vedete che l'Europa è piena di stazioni meteorologiche, l'America è abbastanza piena, però poi quando ci si discosta dalle zone più popolate, in realtà le misure sono molto meno fitte. Diciamo, questo di per sé non sarebbe forse un problema, se non che se si vuole arrivare non solo a misurare il clima nel presente attraverso la misura delle varie variabili che lo determinano, ma si vuole prevedere l'andamento nel futuro, occorre dotarsi di una serie di misure e di strumenti che sono estremamente sofisticati e di cui adesso parlerò nell'ultima parte. Allora, abbiamo detto fino a questo punto, per fare una rapidissima sintesi, che il clima è complicato, che ci sono tanti fattori in gioco e non è possibile affidarsi, diciamo, a sensazioni o anche a misure che non siano molto precise, molto dettagliate. Abbiamo visto che entrano tanti fattori in gioco, questi fattori interagiscono con pesi diversi, no? Abbiamo visto per certe epoche certi andamenti sono determinati da certe cause, ma le correlazioni tra cause ed effetti non sono così strette. Allora, cosa si fa in questo caso se si vuole provare a prevedere il clima futuro? Ci si deve armare di pazienza, provare a scrivere, a mettere in forma matematica ciò che si sa del clima, cioè le leggi di evoluzione delle temperature, delle pressioni, eccetera, eccetera, scrivere dei complicati programmi di calcolo, perché sono equazioni così, diciamo così, complesse e con così tanti fattori che non si possono risolvere a mano o con un computer, diciamo, come questo. Dotarsi di tutta questa strumentazione e provare a calcolare sulla base dei dati presenti l'evoluzione del clima nel futuro. Questa attività è molto complicata e adesso ci sono nel mondo una serie di centri di ricerca che sono specializzati su questo tipo di calcolo. E quello che viene fatto è esattamente una schematizzazione come quella che adesso è rappresentata in questa figura, no? Qui vedete in questo disegno quali sono gli ingredienti che uno deve mettere in conto se vuole provare a prevedere l'andamento del clima. Allora, ci sono ovviamente il sole con la radiazione che immette sulla Terra. Poi deve considerare come risponde la Terra alla radiazione del Sole, quindi quanta quantità di radiazione viene trattenuta dalla superficie e quanta viene riflessa. Ovviamente il suolo della Terra, la superficie della Terra non è uniforme, ha diciamo, ci sono vari tipi di suoli, no? Che possono riflettere più o meno e avere anche dei cicli stagionali che cambiano questa riflessione. Poi ci sono le acque che reagiscono in vario modo, perché la temperatura dell'acqua è soggetta, diciamo, al moto dell'acqua stessa, a seconda di come viene trasferita l'acqua dall'equatore verso i poli, quindi con un cambiamento di temperatura, quindi non è un sistema fisso, ma è un sistema, diciamo, che evolve continuamente anche nella posizione. Inoltre l'acqua scambia umidità con l'atmosfera, come anche il suolo scambia umidità con l'atmosfera, e la presenza di umidità cambia l'interazione tra queste due superfici. Poi bisogna tener conto che le attività umane e anche quelle, diciamo, se la semplice presenza biologica degli esseri viventi immette certi gas e ne elimina altri dall'atmosfera, quindi anche questa dinamica va tenuta in conto. Ci sono le nuvole che hanno un ruolo, perché contribuiscono all'effetto serra, ma anche schermano la radiazione solare, quindi hanno due ruoli opposti. C'è l'attività vulcanica. Insomma, abbiamo parlato 5 minuti e probabilmente non ho esaurito tutti i fattori. Ma voi immaginate cosa significa scrivere un modello matematico di tutto questo. Ovviamente è estremamente complicato, no? Però ci si può provare. Il primo a provarci è un matematico che si chiamava Edward Lorenz, il quale negli anni 60, con i primi computer che erano a disposizione, ha iniziato a fare questo gioco, diciamo così, cercando di applicare equazioni matematiche alle previsioni non del clima, che ha tutti questi fattori che vi ho citato, ma del tempo meteorologico. La differenza, diciamo, un modo per dire la differenza tra clima e tempo è che nei modelli climatici bisogna mettere quanto più di quello che ho detto prima tutto insieme. Nei modelli che prevedono il tempo, quindi il tempo dei prossimi 3 o 5 giorni, si studia solo l'andamento dell'atmosfera, considerando tutto il resto costante. Anche così, semplificando quindi molto il sistema da studiare, lui ha scoperto una cosa interessante che è avvenuta in questo modo. Lui lavorava nel suo ufficio, aveva scritto queste semplici equazioni, queste sono una rappresentazione di come evolve la pressione e la temperatura e la velocità del vento in una zona di atmosfera, e lui faceva i suoi conti, quindi metteva dei dati iniziali, faceva calcolare al computer le equazioni e vedeva i risultati, eccetera, no? Cambiando un po' i parametri, questi A, B e C, che determinano come ognuna di queste grandezze influenza l'altra, come la pressione influenza il vento, per esempio. Si è accorto che se lui trascurava qualche cifra rimettendo i dati, cioè se il risultato era per esempio 3,14, 15, 27 e lui per far prima metteva 3,14, 15, 2, non trovavamo un risultato simile a quello che aveva trovato in precedenza mettendo il 27, ma trovavamo un risultato molto diverso, cioè l'esito del calcolo dipende in modo critico dalla precisione con cui sono presi, inseriti i dati iniziali. Questa cosa di cui lui si è accorto, che all'inizio sembrava, diciamo, un errore del programma, invece è una caratteristica intrinseca della natura, che è stata in seguito chiamata caos deterministico, che significa che ci sono nella natura dei sistemi fisici che per piccole variazioni delle loro condizioni di partenza possono evolvere in modo catastroficamente diverso. Per esempio, se noi prendiamo questo foglio, no? E voi dovete descrivere supponiamo di fare una pallina di carta e di metterla su questo solco. Allora la pallina cosa farà? Se la tengo inclinato il foglio così, scenderà da questa parte. Questo è un sistema semplice. Se però la pallina pensassimo di metterla su questo solco, vedete voi, vedete anche voi che il modo in cui la pallina cade, la direzione in cui la pallina cade, dipende in maniera estremamente critica dalla posizione esatta in cui io la metto qua sopra. Anche se le leggi della fisica sono le stesse in questa, in questo caso come in questo caso. D'accordo? Allora, quello del clima, o anzi quello della meteorologia, è un sistema di questo genere. Piccolissime differenze in partenza provocano grandissime differenze come esito. Questa è la ragione per cui le previsioni del tempo, per esempio, vengono fatte giorno per giorno. No? E il colonnello di turno alla televisione gli dice quali domani, gli dice quali tra due giorni, già tre giorni non ci si può troppo fidare. Se si vanno a vedere, si può fare anche guardando su internet, l'evoluzione storica delle previsioni, si vede che è sostanzialmente impossibile fare previsioni al di là dei 10 giorni, cioè proprio non ci si piglia. E questo è legato proprio alla caratteristica intrinseca di questi sistemi. Allora, adesso vi faccio vedere un brevissimo filmato. Spero che sì. Vedete cosa c'è? È una specie di mulino d'acqua, poi ve lo descrivo. Adesso guardate come si muove. Vedete, oscilla avanti e indietro, cambia velocità. Questo è un esempio semplice, molto semplice, di un sistema dinamico di tipo caotico, come quello del clima. Allora, una cosa va specificata subito ed è che l'azione che muove questa ruota è assolutamente costante. Cioè c'è in questa parte, quindi sono un po' filmato, non è di buona qualità, non si vede, ma c'è una canna, sostanzialmente una canna dell'acqua, che va fissa, che versa l'acqua nei secchi che passano sotto. I secchi sono tutti uguali e hanno un buco sul fondo. Quindi questa è semplicemente una ruota con appesi 8 secchi con un buco. Quindi è un sistema semplice. Pur tenendo il flusso dell'acqua costante, quindi come dire, pur tenendo in un sistema climatico la radiazione solare costante, oppur tenendo la quantità di CO2 costante, l'andamento della ruota è caotico, cioè va o a destra o a sinistra, cambia velocità, cambia direzione, e la cosa è imprevedibile, se non entro un certo margine. Quindi questo è, diciamo, un esempio visivo che tra l'altro è così semplice che si potrebbe realizzare anche nel laboratorio di fisica, forse, non so, di come anche dei sistemi matematicamente molto facili, molto semplici, possono produrre un andamento imprevedibile. Se voi moltiplicate per 100 o per 1000 il numero di fattori in gioco, qui i fattori in gioco cosa sono? Vediamo se riusciamo a ricostruirli. Cos'è che determina il moto di questa ruota? Sì, l'acqua. Sì, l'acqua, ma a causa dell'acqua? La forza peso. D'accordo, la forza peso, quindi il flusso dell'acqua, in questo caso. Quanta acqua? Cioè, se il rubinetto qui è aperto, molto aperto, poco aperto. Poi? Quanta acqua perdono? Come? Quanta acqua perdono? Quanta acqua perdono, quindi quanto è grande il buco nel secchio, nei secchi. Poi? Quanti secchi ci sono? quanti secchi ci sono è, sì, è un parametro ma meno importante. Diciamo più che altro quello che conta non è quanti secchi, ma quanta è grande la somma della superficie dei secchi, che vuol dire in pratica, se tu hai tanti secchi o dei secchi molto, molto larghi, praticamente tutta l'acqua che c'è qui cade in un secchio, in uno qualsiasi dei secchi. Se invece la situazione è questa, molta va persa. Quindi in questo senso è giusto quello che dici. Poi? Quanto è grande la ruota? Quanto è grande la ruota non conta, conta piuttosto quanto è quanto è, diciamo, quanto è l'attrito sul mozzo, quindi se gira facilmente o fa più fatica a girare. E basta, direi che tutto qui. No, quindi sono, non so, 4-5 parametri. Nella figura di prima, nella figura di prima che vi ho mostrato, la figura del sistema climatico, c'erano 20 fattori. Ops, buonanotte. Va bene, quindi diciamo lo stato dell'arte su questo tema è che si fa quello che si può, in buona sostanza, che è tanto e non è poco, però si può cercare di studiare l'evoluzione di questi sistemi in senso statistico. Cosa vuol dire? Che uno prende un sistema anche semplice come questo o anche complesso come quello del clima, mette dentro tutto ciò che veramente sa del clima, che in pratica vuol dire come i vari meccanismi interagiscono tra loro, quanto un meccanismo influenza l'altro. Per esempio, se voi avete che la temperatura è più calda, vuol dire che ci saranno in una regione più animali o più piante. Gli animali e le piante, allora gli animali produrranno più CO2, le piante invece toglieranno il CO2 dall'atmosfera. Tutti questi fattori sono in correlazione tra loro, no? Se voi ne modificate uno, indirettamente modificate anche gli altri. Quindi diciamo, si deve modellare quanto meglio si sa tutte queste cose e poi provare a fare il calcolo. Ora il problema è che mentre il tempo evolve, mentre cioè il tempo passa proprio, questi fattori evolvono anche loro. Quindi non si tratta semplicemente di studiare un sistema come quello della ruota di prima, dove diciamo in un periodo di tempo tutti i parametri sono costanti, cioè l'acqua che scende è quella, il buco del secchio è quello. Ma questi parametri stessi in un sistema come quello del clima evolvono nel tempo, quindi è ancora molto più complicato. Quindi quello che si può fare, l'unica cosa che si può fare è studiare la statistica di questi fenomeni, che vuol dire prendere un certo sistema, fare tantissime prove e fare la statistica del risultato. Quindi si troverà, diciamo, una certa mappa tra i dati di ingresso e i dati di uscita. Il problema è che questi calcoli sono molto dispendiosi dal punto di vista del tempo e delle risorse e quindi non è possibile descrivere in modo completo tutto. Quindi è questo che, diciamo, rende la predizione climatica una cosa estremamente difficile e una cosa, come dire, su cui non si può fare un affidamento assoluto, anche per predire quali sono le azioni da intraprendere. No? Perché ci si deve affidare ad uno strumento in realtà non completamente affidabile per, ad esempio, per prendere delle decisioni che hanno un impatto sociale, economico molto, molto serio, molto grave. Se decidiamo che vogliamo ridurre la CO2 immessa in atmosfera, si può fare, però ha un costo molto grande. E allora bisogna capire se il costo vale il risultato oppure no. Va bene, io direi che con questo potremmo chiudere la cosa. Vi lascio con una frase di Papa Benedetto XVI, che secondo me dà il tono dell'approccio che bisogna avere di fronte a cose più grandi, no, di quanto si è in grado di controllare. e dice: non possiamo usare ed abusare del mondo e della materia come di semplici materiali del nostro fare e volere. Dobbiamo considerare la creazione come un dono affidatoci non per la distruzione, ma perché diventi il giardino di Dio e che sia un giardino dell'uomo. Quindi, diciamo, sicuramente, se anche non sono note tutte le ricette, è chiaro, la natura stessa suggerisce un atteggiamento di rispetto e di rispetto nell'uso delle risorse, un uso prudente delle risorse, non un, diciamo, astenersi dall'uso, ma un uso prudente. Io direi se abbiamo qualche domanda, perché abbiamo ancora un po' di tempo, meno alle ancora 10 minuti almeno, però 10 minuti. Se vogliamo fare qualche domanda è un'occasione buona, questo perché. Tutto chiaro quello che ma in alcuni grafici che del tempo e delle ere glaciali si vedeva che era piuttosto regolare, che prima c'era un periodo di caldo e poi si scendeva. Sì. Se noi adesso siamo in un periodo di caldo, significa che in una distanza di non so quanti anni ci sarà un'altra era glaciale o un periodo di freddo? Cioè, diciamo, questa è una delle questioni in gioco, no? Mentre su quei grafici si vede che almeno fin dove arrivano le misure precise arrivano fino a circa 1 milione di anni fa, poi di più non si vede più. Almeno in questo periodo, hai visto, c'erano 4-5 periodicità, no? Il problema è che, se vuoi, la cosa che si teme, più o meno motivatamente, però la cosa che si teme è che l'intervento dell'uomo sposti l'equilibrio, per cui non c'è più questo andamento ciclico, ma c'è qualcosa di imprevedibile. Quindi, se vuoi, la questione in gioco, la domanda è se accanto ai fenomeni naturali che sono intervenuti sempre nella storia e che hanno prodotto, poi vi ho fatto vedere un tipo di grafico, ma ce ne sono un milione, se volete vedere, che hanno introdotto dei cambiamenti anche molto repentini, se ciò che fa l'uomo in più come dire, può provocare un effetto che sposta questo equilibrio oppure no, oppure se l'equilibrio è comunque dominato da fattori di carattere naturale. Io potrei fare una domanda. Le misurazioni della temperatura a cui sono riferiti questi grafici sono avvenuti nel passato con quali strumenti? No, dipende da quale passato ci riferiamo. Su questo appunto verrà la mia collega Lucilla Capotondi, che è un'esperta sulle tecniche del passato, perché è geologa. Però diciamo, come diceva, accennavo all'inizio, con le tecniche che riguardano i sedimenti marini e i sedimenti di ghiaccio si arriva a circa 1 milione di anni. Poi ci sono tecniche, per esempio, che vanno a vedere la composizione delle cortecce degli alberi, per esempio, che in qualche modo risente degli isotopi presenti in atmosfera. Delle varie componenti dell'atmosfera, anche le componenti minoritarie, e queste sono tecniche che possono far risalire fino grosso modo a 1 migliaio d'anni, insomma, quanto può durare la corteccia di un albero. Quale precisione? Cioè, che temperature bisognano? 10 gradi, il grado, il decimetro? Questo è una domanda molto difficile, perché si tratta in realtà di andare. Non si fa una misura diretta della temperatura, si fa una misura incrociata di vari parametri che danno una stima della temperatura. Per esempio, se noi adesso sappiamo che certe piante vivono in certe condizioni climatiche, se si trovano piante di questo tipo a una certa quota in montagna, significa che la temperatura nell'epoca nelle quali vengono datate queste piante era necessario di incrociare una serie di dati di questo tipo che riguardano la composizione dei fossili, la composizione delle cortecce, i suoli, una miriade. Questo per le migliaia di anni, quando veniva fatto vedere invece la misurazione della temperatura dal 1870? No, quelle sono misure dirette invece. Quelle sono misurazioni dirette e registrate. Che hanno la stessa precisione di quelli che oggi? No, però la precisione non è così importante. Cioè, non è che sia importante andare a misurare il decimo di grado, no? Quello che è importante è che gli strumenti siano tarati, per cui, come dire, la misura riferita a 100 anni fa sia confrontabile, magari meno precisa, però confrontabile con quella di adesso. E poi che le serie siano attribuibili, cioè siano prese con costanza, no? In modo da individuare un andamento. E questo appunto è avvenuto, in realtà ci sono misure anche precedenti, credo a partire dal 600. Però una rete integrata vera e propria è solo negli ultimi 150 anni. Sì, sì, sì. Infatti, sì, questo era quello che mi dicevo prima. E tra l'altro c'è uno dei grafici che vi ho fatto vedere prima, quello delle eruzioni vulcaniche che produceva dei salti. Se avete guardato bene, c'era un salto che non corrispondeva a nessuna eruzione vulcanica. E questo è probabilmente, non è ancora certo, ma probabilmente è stato un fenomeno, diciamo, un artificio di un altro tipo. Ed è stato durante la seconda guerra mondiale, o alla fine della seconda guerra mondiale, cambiata la tecnica con cui venivano misurate le temperature degli oceani, proprio cambiato il dispositivo, e si è passati da oggetti isolati, oggetti non isolati e oggetti isolati. Quindi, diciamo, in qualche modo c'è stato un cambiamento di tecnica che ha prodotto proprio uno spostamento dei dati. La taratura era diversa. E però della cosa, diciamo, ci si sta rendendo conto adesso, a distanza di 50 anni, 60 anni, andando a vedere le serie storiche e accorgendosi che, diciamo, c'è un salto non giustificato. Allora, andando ad esaminare la documentazione dell'epoca, si è visto che una parte delle navi utilizzate, quelle americane se non sbaglio, hanno subito questo cambiamento, e avendo subito questo cambiamento registravano delle temperature sistematicamente un po' diverse. Quindi, diciamo, in realtà è un lavoro combinato di analisi di tipo fisico e scientifico, ma anche di analisi di tipo storico per quanto riguarda i dati più vecchi, mentre invece adesso negli ultimi 100 anni i dati sono disponibili online, diciamo, queste cose sono molto più omogenee, certo. però in realtà omogenei, ma non è detto che l'interpretazione sia semplice, perché mentre alcune misure, le misure locali, fatte col termometro, per intenderci, sono dirette, quindi quello misura la temperatura, tutte le misure, per esempio da satellite, usano altre tecniche, usano tipicamente l'interpretazione di un fenomeno fisico, tipicamente l'assorbimento di radiazione a microonde. Allora, siccome è un fenomeno complesso, complicato, che dà informazioni entro certi limiti, l'interpretazione in realtà non è ancora del tutto consolidata. Quindi anche questo può introdurre delle piccole o non piccolissime barre d'errore nella misura. Fa parte del procedere normale della scienza, non è che ci sia niente di nuovo, niente di scandaloso. Allora, scusi, non è perché voglio insistere, ma è che voglio capire. Se noi abbiamo concluso che la variazione climatica è avvenuta per 0,7 gradi centigradi negli ultimi 100 anni, se questi strumenti che abbiamo utilizzato per la misurazione di queste temperature sono comunque soggetti a degli errori, questo 0,7 gradi centigradi potrebbe essere un effetto dell'errore o è no, no, se lei si ricorda faccio rivedere da Alito. Il grafico della temperatura che ho mostrato aveva delle barre d'errore, no? Cioè, diciamo, ciò che si fa per studiare la statistica, quindi la curva nera qui rappresenta l'esito della misura, della media sulle misure, medie temporali, medie geografiche, e appunto tiene conto in qualche modo degli errori. La misura anno per anno è l'estremo della barra, le barre blu o barre rosse. Sì, no, quindi l'errore possibile è assorbito dalla interpretazione statistica. Diciamo che l'errore possibile, come si vede qui, errore, insomma, la variazione possibile in un anno può essere grande quanto tutta la variazione di cui stiamo parlando, come in questo caso, come nel 1879, vede che c'è un puntino rosso in mezzo a tutti i blu. Allora, può anche darsi che quell'anno lì sia veramente stato un anno così caldo, dopodiché non sappiamo, no, in realtà cosa imputare questa misura, se era un anno più caldo oppure un errore nelle misure, però strano che ci sono sempre misure integrate di varie fonti. Ciò che ha senso alla fine è l'andamento medio, questo è il concetto. Ci sono due tipi di influenze. Una è legata ai parametri orbitali, cioè all'oscillazione regolare nel tempo delle caratteristiche dell'orbita, che cambia eccentricità, precessione degli equinozi, eccetera, e questo, diciamo, si vede nelle serie storiche delle glaciazioni, si vede una certa corrispondenza, quindi non perfetta, ma è sicuramente uno dei fattori importanti che giocano ruolo. E l'altro fattore invece è legato all'attività solare, quindi alla luminosità intrinseca del Sole, che anche lei ha una sua ciclicità, e questo invece è un fenomeno che sembra essere importante in una certa epoca, diciamo, riferendosi all'epoca storica del passato recente, sembra aver giocato un ruolo tra il Medioevo e il 1800, mentre poi in altri periodi esaminati con la stessa accuratezza sembrano prevalere altri fenomeni. Quindi, diciamo, il ruolo c'è sicuramente, ma non ha sempre lo stesso grado di prevalenza rispetto ai parametri climatici. Mi sono spiegato? No. Anche se c'è chi lo sostiene. Però, diciamo, le indicazioni ci sono, non ci sono delle indicazioni da questo punto di vista molto molto univoche. No, il ghiaccio dell'Artico non si scioglie proprio. Ah, non si scioglie. Polo Nord si sta scegliendo, anzi si sta scegliendo, Nord, Polo Sud e Nord invece. Arrivederci, grazie. Arrivederci, grazie a voi. Il metallo? Se continua questo trend, è già successo che il polo nord si è sciolto completamente, quindi quando? adesso i giacimenti, cioè sì, remoto, perché remoto. I giacimenti di metano, però è anche successo successivamente a questo scioglimento, allora se c'è ancora sotto parecchio. Beh, lì rimane intrappolato al momento della formazione. Sì, esatto. È anche successo che tutta la terra si sia coperta di ghiaccio due volte nella storia del pianeta. Quindi diciamo, ci sono state variazioni anche molto, molto violente, molto importanti, che fino adesso hanno sempre però oscillato intorno a una condizione media di equilibrio. Sì, ma questa copertura totale, quindi prima della comparsa della vita sulla Terra? Prima della comparsa della vita sulla Terra, sì. Perché almeno prima della vita, diciamo, prima della comparsa dei vertebrati terrestri, questo sì, questo sì, non prima della vita, prima della vita evoluta, tra virgolette. Sì, sì, sì. Vero. Si conosce la causa scatenante di queste aree glaciali? Voglio dire una Di queste totali? Di queste due totali. Ci sono delle ipotesi. Un'ipotesi è che sia proprio legato alla particolare conformazione della parte emersa delle terre, legata al fatto che esistesse un macrocontinente, non più continenti, ma un unico macrocontinente, e in qualche modo questo ha sbilanciato la dinamica delle precipitazioni, e siccome la dinamica delle precipitazioni ha un effetto diretto sull'effetto serra, perché l'anidride carbonica in atmosfera viene immessa, diciamo, dai fenomeni geologici sostanzialmente e eliminata dalle precipitazioni, uno squilibrio delle precipitazioni produce, per esempio, una diminuzione delle precipitazioni produce un aumento dell'effetto serra e viceversa. E quindi sembra che uno squilibrio in questa dinamica abbia favorito il meccanismo. Dopodiché il meccanismo, una volta che parte, si autosostiene, perché appunto se aumentano le superfici innevate aumenta l'albedo, cioè la riflessione di radiazione solare, e quindi il clima si raffredda sempre di più. Potrebbe poi continuare a aumentare questo grado di ghiaccio? Sì, sì, è un certo. Sembra strano che poi c'è un'inversione. Non sono cose del tutto chiare. Non sono cose del tutto chiare. Cioè, sinceramente non so rispondere, se non posso dire quello che ho letto, che sono queste cose. Può essere entrato in gioco in parte anche una componente biologica in questa dinamica, con, diciamo, un contributo diverso dato da certi microrganismi alla composizione dell'atmosfera, che hanno diciamo, guidato da una parte piuttosto che dall'altra la temperatura alla fine. Innanzitutto vorrei chiedere, il massimo centro di un interglaciale è di quanto differisce rispetto alla situazione attuale? Abbiamo visto qualche grado più freddo, ma non tantissimo. Interglaciale, cioè è il caso. Sì, sì, è un pochino più freddo il periodo attuale. Anche in periodi recenti è stato più caldo. E questo qua? Si parla di, diciamo, credo che, vediamo se ce n'è uno con, questo è riferito al presente. Questo è sui 10.000 anni. L'era glaciale, l'ultima, è questa temperatura, quindi parliamo di differenze di qualche grado, 4-5 gradi. O anche in questo grafico. Ma sul precedente, cioè il passaggio fra Risse e Burgo, cioè fra le due glaciazioni precedenti, ci sono state punte un pochino più elevate? Sì, ma parliamo adesso noi siamo qui e siamo qualche grado più alto di questa temperatura, d'accordo? Credo nell'ordine di un grado. Quando parliamo delle differenze tra periodo glaciale e periodo interglaciale, parliamo di una differenza di temperatura media dell'ordine di 8 gradi. Siamo adesso appena superiori a questa temperatura, quindi siamo dentro i 10 gradi. Ed è riferito a quell'evento climatico che è chiamato Niño, no? Cioè le correnti. Sì. La mia domanda era, da quant'è che ci si è accorti di questo fatto? Prima degli anni 60 o no? Accorti? Accorti? No, dipende cosa vuol dire. Riscaldamento, diciamo. No, dipende cosa vuol dire accorgersi. Cioè, ci sono interpretazioni che indicano come il fenomeno fosse presente in epoca, diciamo, precolombiana. Nel senso che ci sono non misure dell'epoca, ma ci sono documenti storici che testimoniano cambiamenti climatici con le caratteristiche tipiche di quelle portate da queste oscillazioni, e quindi, diciamo, la gente se ne è accorta, loro, gli Inca se ne sono accorti forse mille anni fa. Poi la cosa è analizzata dal punto di vista scientifico, non so, credo da una trentina d'anni. E adesso è descritta abbastanza bene, adesso si riesce a modellizzare anche in termini appunto dei livelli climatici in modo chiaro. Un'accelerazione, diciamo, arrivederci. A partire dagli anni, grosso modo, no. Fino a... No, non un'accelerazione, quello che eventualmente si dice, però, diciamo, i cicli storici sono troppo pochi per una statistica. È eventualmente una estremizzazione dei valori di temperatura, però non mi risulta che siano significative in questa fase, cioè non ci sono segni di particolare inasprimento del fenomeno. La temperatura a livello globale non è tanto diminuita, perché noi abbiamo così la particolare. No, no, quest'anno, come ho fatto vedere prima, nel 2008, che è l'ultimo dato disponibile evidentemente, è in questa posizione. Quindi siamo tra i più 12 e 13 più tardi, però in realtà, se guardiamo anche questo grafico, dal 97 circa la temperatura in realtà non è aumentata, e quest'anno il 2008 conferma il trend a diminuire. Sì, non siamo in un periodo di particolare attività. Quindi fra i 13 più caldi e il più freddo. Sì. 2008. Sì. Quindi un fenomeno un po' globale, insomma. Poi sì, appunto. È un fenomeno molto complesso da analizzare, non ci si può limitare. Diciamo, c'è anche, adesso sono varie cose di cui non ho dato i dettagli, ma penso che una volta che si innesca una glaciazione, poi si autoalimenta, cioè nel senso che certamente le possibilità di intervenire su queste scale di fenomeni sono irrisorie da parte dell'uomo, specialmente per frenare un fenomeno che sta avvenendo, diciamo, su proprie forze. Quello che di cui non abbiamo parlato in dettaglio e che in qualche modo ha giustificato l'inizio di certe politiche, tipo quello del protocollo di Kyoto, eccetera, è in realtà una certa concordanza tra le previsioni modellistiche e la ricostruzione di sedi storiche passate, cioè un modo per fare il test di un modello climatico è applicarlo a un periodo storico già trascorso, evidentemente. Quindi, per esempio, inserendo i dati del 1900, prevedere cosa succede nei 10 anni successivi, tipo dei modelli che c'è a casa. E diciamo, verificando che la cosa funziona, si può provare poi a giocare con i parametri del modello. Per esempio, tolgo CO2, metto CO2, aumento il sole, tolgo il sole, vedo che succede. Allora, queste prove generalmente hanno prodotto il fatto che per far tornare le cose bisogna agire sulla CO2, cioè la CO2 è il parametro che meglio si riesce ad adattare in modo che venga ricostruita una serie storica. Però questo non vuol dire in modo univoco che è la cosa giusta. Vuol dire... No, no, no, no, no, no, no, no, questo è un altro discorso, sì. Certamente, no, no, no, questo è un altro discorso molto sensato che condivido totalmente. La cosa che non si può dire, che non deve essere detta, è che sicuramente la CO2 è dimostrato essere, non solo la CO2, ma la CO2 immessa dall'uomo, è sicuramente dimostrato come essere il fattore determinante nel cambiamento climatico, perché questo non si può dire, perché o si ha in definizione un modello completamente conosciuto, completamente testato, oppure è un'ipotesi buona da prendere in considerazione ma non definitiva, e soprattutto non si può dire che ad una certa variazione corrisponde un esito noto. Sicuramente è positivo ridurre l'emissione di CO2, per carità, però non è che a questo poi si corrisponda un esito conosciuto. Certamente male non farà, ma non è detto che faccia tutto il bene che si spera. Sull'asse terrestre, tempo fa leggevo che l'attività dell'uomo legata agli esperimenti nucleari abbia alterato la sua inclinazione. Stavo pensando un'altra cosa, comunque termine una domanda dopo. Sì, no, volevo sapere quanto è sensata questa ipotesi. No, diciamo, non mi sono mai occupato del problema, ma credo che sia. Allora, sicuramente se ha un effetto è così piccolo da non essere misurabile. L'inclinazione dell'asse terrestre avrebbe un effetto immediato violentissimo. Anche di poco. L'impatto con, diciamo, qualunque causa che provocasse una variazione dell'asse terrestre deve essere una causa di dimensioni molto macroscopiche. Quindi probabilmente l'impatto con un grosso meteorite, oppure una gigantesca esplosione nucleare, dove, come dire, l'esito dell'inclinazione sarebbe poca cosa rispetto alla causa, perché se arriva sulla Terra un meteorite tale da spostare l'asse terrestre, i danni che fa l'impatto sono, capito, l'ultima delle preoccupazioni è che cambiano un po' le stagioni. Secondo il mio studio, tutti i giochi sulla Terra sono legati quasi terrestre con precisione tutti i telescopi del mondo. Sì. Quindi se ci fosse una variazione se ne saremmo accorti. Sì. Sono state fatte prevalentemente tra l'altro alla fine degli anni 50 e degli anni 60 non è stato permesso il fuori dell'Asia 64, sia da parte degli americani che guarda caso nella zona del Pacifico, sia da parte dei russi che guarda caso nella zona grande. Ora, indipendentemente dalla questione dei come sempre sono d'accordo con lei, è impossibile che una cosa del genere possa influire sulla sicurezza. Ma, però, da un punto di vista fisico, la qualità della reazione è molto diversa rispetto a quelle bombe che sono esplose. La qualità della reazione, cioè il fatto che la fusione nucleare intervenga su una reazione legata al deuterio, la presenza di deuterio. Per come la so io, insomma, questo genere di reazioni ha termine e fino a quarto termine. Questo è il punto. Io penso che questo potrebbe, dal punto di vista teorico, non la seguo affatto. Tra l'altro io mi occupo normalmente non di clima ma di fusione nucleare, quindi sono abbastanza dentro il problema. Una fusione nucleare, le reazioni di fusione nucleare sono reazioni come quelle che avvengono nelle stelle e diciamo sono più energetiche rispetto a quelle di fissione, però il materiale della fusione nucleare è in questo caso deuterio e trizio. Deuterio e trizio e il prodotto di questa fusione è essenzialmente, diciamo, il prodotto della reazione in sé è elio, che è assolutamente innocuo. E poi i neutroni che. Ma è quello che mi chiedo io è se questa reazione sia effettivamente terminata. Questa reazione non. A quell'epoca lì. Adesso oppure in qualche si fermi. Questa reazione non si può sostenere se non in condizioni assolutamente peculiari, e infatti si sostiene solo ed esclusivamente nel centro delle stelle e in macchine costruite apposta, molto complicate, e il cui minimo malfunzionamento causa il semplice spegnimento della reazione stessa, cioè non si autosostiene, non produce meccanismi, non involve meccanismi che l'autosostengono se non nel centro della stella. Quindi è assolutamente escluso che se questa è la domanda, è assolutamente escluso nel modo più categorico che una reazione, l'innesco di una fusione nucleare possa procedere in modo incontrollato. Questo, diciamo, è negato dai principi di base di fisica che la generano. Non può succedere. Mentre potrebbe succedere forse qualcosa di vagamente analogo per la fissione, nel senso che nella fissione si producono materiali pesanti radioattivi che hanno una loro vita, diciamo, possono avere una loro, anzi si registra, si sono osservati in natura in certe posizioni particolari dei cosiddetti reattori nucleari naturali, cioè dove la vicinanza di materiale fissile casuale e naturale ha provocato l'innesco di una reazione a catena molto lenta, ma che comunque è stata misurata. Però la stessa cosa non può venire per la fusione. Ci saranno tempi della fusione per qualche secondo? Come? Molto di meno. Molto di meno. È un po' fuori dall'argomento. Quando studiavo all'università c'era questo progetto della realizzazione di un reattore nucleare che sostenesse la fusione nucleare, e il progetto doveva durare una decina di anni. Lei che è a Chiggio sa a che punto, qual è lo stato dell'arte? Ah, deve durare ancora una decina di anni. No, dipende da che progetto si tratta. Non mi spiego meglio, scusi. Nel senso che c'è un progetto in senso lato di capire se si riesce, se si può fare un reattore a fusione, ha la sua storia, continuano a essere studi in corso. Attualmente è stato approvato un paio d'anni fa, la costruzione di un reattore, sempre di un esperimento ancora, non un reattore commerciale o industriale, ma un esperimento di dimensioni sufficienti a innescare queste reazioni, a innescare in modo diciamo semistabile queste reazioni, dove semistabile non vuol dire che è pericoloso, vuol dire che non va, si ferma, ecco. E il progetto prevede che cominci a operare questa macchina intorno al 2018-2020. È iniziata la costruzione qualche un anno fa circa. No, è un progetto internazionale, è un progetto che vede 7 partner internazionali che sono Europa, messo insieme, Cina, Corea, Giappone, Stati Uniti, India e Confederazione Russa. Quindi sostanzialmente tutta la realtà, quasi tutta la realtà industriale, tecnologica e scientifica del mondo. Mi sta chiamando. Il discorso di prima scorsa mi viene da morte, quindi se paradossalmente dovessi scorso i cieli e medicasse oppure non ci fosse una situazione di curiose sui continenti, la idea fuori aumenterebbe in modo sì. Questo è, diciamo, il meccanismo che ha tenuto grosso modo stabile la temperatura sul pianeta sull'arco dei milioni di anni, diciamo grosso modo stabile nel senso che nonostante tutte le variazioni, con tutte le cause che abbiamo detto, comunque diciamo l'intervallo di variabilità è mantenuto limitato. Va bene, se non sono domande ulteriori. Venerdì prossimo viene una collega che è geologa e che si occupa proprio direttamente dello studio dei sedimenti marini, quindi può dire molto meglio di me tutta la questione delle ricostruzioni storiche della temperatura, le tecniche del, diciamo anche proprio dei ritrovamenti. Va bene, grazie. Grazie per l'attenzione. Grazie mille. Curiosità, scusa. Che basta, è prossima di base. La teoria del fotico. Sì, la teoria del fotico. In questo momento si dovrebbero ricongiungere, sono in fase di ricongiungimento i vari continenti. Se invece succede di nuovo, dovrebbe succedere qualcosa. Alcuni si stanno avvicinando, altri stanno lontano. Che dipende dalla coppia di zolle che si considera. 4-2-1. Io non ho così almeno quello che lo chiuderei. Ma in caso, sono tutta la. Tenderebbero a chiudere la. Non posso farlo stare qui fino a essere dell'Atlantica, come se avessero inviato per chiudere il senso. Ah, non lo so. Quindi ci sarebbe un nuovo. Vedete per cosa andremo. Allora noi adesso saremo in piazza. Dopo di sarà che sono accendere. Stiamo andando verso una glaciale. Tanto dice il meccanismo tra tettoniche zone e glaciazione non è così indiretto di nuovo, non è, sembra anzi che l'importante è che ci vede il proiettile, perché se non è configurato per la Romagna non parte. Sì, per l'internet di guardare adesso la mia è già configurata. Sì. Vi darò notizie perché devo sentire quelli del rifugio. Per fare la adesione. ci sono. Quella vera bisogna della visione. Sì, venerdì tu ci sei. Certo, io vengo venerdì mi impegni. Al massimo. Sì, ma comunque io aderisco. Sì, boh. Arrivederci. Sì, arrivederci. Aspetta che uno è il mio, uno è il mio. Questo è il mio. Sono lì di frequenza. Grazie. Vuoi bene il concetto? Poi facciamo giù le carte un po'. Sì. Abbiamo avuto la conferenza. Abbiamo avuto la sleale concorrenza da una magna del Lucio Gardini che ha fatto uno spettacolo spettacolare e quindi con un comico si è portato via le segrete e comunque noi abbiamo due possibilità per il pomeriggio, o la una magna che oggi finalmente è disponibile, bella grande, un proiettore enorme, tutto, oppure restare qui. Ma se si vede un po' meglio forse possiamo dire anche. Là sicuramente si vede molto meglio. Molto meglio. Sì. Vi presento Paolo Pia. Che c'è Paolo Pia? Lui ci condurrà nell'ultima fase della più alta, diciamo così, dell'osservazione del cielo. Ah, esatto, sì. Tu sei un astronomo. Sono fisico che fa della grande astronomia. Fisico e laureando in astronomia. Facciamo la testa per gli altri. Allora, noi dobbiamo finire un po' di carte da compilare, sì, che non sono riuscite ad arrivare a buon fine. Allora, se vuoi metterci là, così mette sui dati bancari, è un po' quello che avevo mandato. Non è riuscito proprio ad aprirlo, perché mi è arrivata una serie di, non so perché, ma una serie di... Come? Non ero riuscito ad aprire il documento, perché mi è arrivata una serie di immagini spezzettate. Che guarda. Non so se ho... dovrei avere una pena. Dovremmo selezionare su tanto che compila, proviamo a andare a telefonare e fare il controllo. Siamo di qua da un'altra ora. Sì, sì. Sì. allora le posso mettere sulla mia chiavetta, così sono autonomo, perché hanno chiesto se possono collegarsi nel pomeriggio, allora ho messo in piedi, sì, sì, però non so con che ordine poi. Ma io seguo l'ordine, appena vedo che cambia, lo fai tu direttamente. Siamo su due computer diversi proprio. Okay. Cioè lei è completamente autonomo e io sto da una parte e clicco. Va bene. E clicco allora. Lascio qua su questo. Thank you. se ce lo danno. Metto su una chiave. E allora mi hai detto che è? Questa qua. Questo è il filmato. Ah, tutti e due. Questa è la presentazione. Ah, perfetto. Allora, questi. Allora. No, ho vinto la serie di ricerca e... No, ho chiamato quella parte astronomica sul corso. Mi sta dicendo che c'è fatto fisica a Trento. E poi per te la laurea in astronomia? No, c'è voluto corso dell'astronomia, no, ho fatto... fisica perché era la più simile qua quando tenta con facoltà non c'era astronomia, questa fisica, allora ho fatto fisica così. Ero appena finito, mi sono messo degli esami qua, ma dopo due mesi dopo mi sono laureato, ho messo astrofisica nucleare, allora ho fatto quello. Dopo tutto fuori cani ho messo astrofisica teorica, ho fatto altri esami, ho messo cosmologia e poi altri esami, ho fatto praticamente con la laurea in fisica più quattro esami. Allora ho chiesto poi di papà di là se potevo essere iscritto in qualche modo a specialistica. Allora a Bologna mi hanno proposto il secondo anno di triennale, ho detto che appunto lì vado a fare il secondo anno. E a Padova invece mi hanno consentito di iscrivermi alla specialistica, alla fatta specialistica, la bravo, ho detto. Appunto, fino all'anno scorso avevo già due veretta. Poi quest'anno mi sono finito la giudice eccetera, allora non si può uno di fatto sia la melodia anche la sua tesi di cinema. Sulle nova. Sistema binario di stelle, una bianca e stella compagna, è stato in di gas e si innesca più di nucleare, superficie e stella esplode diciamo in volucro esterno, quindi ha naturalmente di musica, insomma. È l'unico caso che si può vedere la fusione nucleare proprio in superficie. Bene, mi sembra che siamo conclusi, scusate, ma ho voluto mettere anche in sicurezza questo gesto. Comunque noi andremo a lavorare nel pomeriggio. la legge della vita sulla vita un'altra volta.